Eccoci, adesso ci siamo. Ezio, ci senti? Io vi sentivo. Perfetto, adesso ci... qualche volta i telefoni non funzionano, cosa vuoi fare? La tecnologia qualche volta va in tilt. Buonasera Ezio, adesso parliamo di questo tuo nuovo libro, Deliti Rock, che hai pubblicato molto di recente. Perché hai fatto un libro sui Deliti Rock? Perché mi è capitato un caso, diciamo, che mi ha toccato personalmente. Non ho, come scrivo io nella mia scheda, io ho intervistato credo più di 1000 rockstar, esatto. E non ne ho ammazzato nessuno fino ad oggi. Finora hai scritto. Però diciamo che mi è successo tanti anni fa incontrare una ragazza californiana che faceva l'attrice, che era venuta in Europa a cercare fortuna, o comunque a trovare la sua America in Italia, e era stata a casa mia, avevamo passato del tempo insieme, e poi così come era arrivata, così era ritornata in America, e dopo un po' di tempo avevo perso le sue tracce. Ho scoperto purtroppo, circa 5 anni fa, che lei era rimasta vittima di una delle tante mattane di un signore che si chiama Phil Spector, che tutti gli appassionati di musica conoscono come il primo e forse più grande producer della storia del rock, l'uomo dietro la console di Ike e Tina Turner, dei Beatles, di Lady B, di George Harrison, John Lennon, persino dei Ramones, un uomo che ha creato un vero e proprio impero di diritti editoriali, di royalties, di cataloghi di musica prestigiosi, che però si è sempre contraddistinto per le sue stranezze e per la sua violenza. 5 anni fa Phil Spector, verso le 2 di notte, era andato a fare un giro con la sua nuova Rolls Royce per le strade di Los Angeles, si era fermato alla House of Blues, che è un locale fondato da Dan Aykroyd dei Blues Brothers, e lì lavorava questa mia amica Lana Clarkson, la quale, sempre un po' ingenua alla ricerca del produttore, del personaggio famoso, così aveva accettato l'invito di Phil Spector, che le offriva da bere, e le aveva così proposto di andare a visitare la sua casa, che è un castello di stampo disneyano in uno dei quartieri più residenziali di Los Angeles. Lei ha accettato, e purtroppo quella sera invece del principe azzurro, del produttore dei suoi sogni, ha incontrato sostanzialmente il suo omicida. La cosa brutta è che per 5 anni, grazie alle le furbizie legali dell'avvocato che ha difeso anche O.J. Simpson, Phil Spector sembrava averla fatta franca. È vero. Ma circa un anno fa è stato riconosciuto colpevole di omicidio, condannato a 18 anni di carcere, o perlomeno fino a quando lui avrà compiuto 88 anni non potrà chiedere la libertà sulla parola, per cui in questo caso si può proprio dire che almeno giustizia è stata fatta. Verissimo, ecco, questo. Da quella storia di Lana avevo comprato subito una sorta di instant book, che era una specie di biografia di Phil Spector, e nelle ultime pagine si ricostruivano appunto le ultime ore di Lana Clarkson e questa storia che io vi ho sintetizzato brevemente. Da lì mi è venuto in mente che forse si poteva raccontare allo stesso modo, cioè come se fosse un noir, partendo dalla scena del crimine, le vicende misteriose, le tragiche fini spesso misteriose di tante star della musica di ieri e di oggi. E così ho cominciato a farlo su vari fronti, fino a che mi sono ritrovato ad avere un sacco di materiale, e poi l'idea del libro è stata una conseguenza, ecco. Giusto, tu hai scritto Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, 4 grandi star della musica che hanno cambiato il mondo e muoiono in circostanze misteriose nel giro di soli 2 anni, tutti avevano una J e tutti avevano 27 anni. Sì, questo è anche, te l'ho detto perché ho finito da poco le prove, è anche lo spettacolo teatrale che io ho tratto dal mio libro e che è basato proprio sulle storie di questi 4 personaggi. Io tra una settimana sarò lì da voi, non certo, per presentare lo spettacolo teatrale, ma martedì 8 giugno alle 6 di sera alla Feltrinelli. Alla Feltrinelli, esattamente. A San Francesco, mi pare. Esattamente, proprio così. Presento il libro con una sorta di estratto nudo, molto nudo, di quello che è lo spettacolo teatrale, che appunto ricostruisce le morti di questi personaggi che tu hai indicato, che hanno tante coincidenze, quella della Jane e il nome, di essere tutti morti a 27 anni, ma anche quella che nel giro di soli 2 anni, dal 3 luglio del 1969, il giorno in cui muore Brian Jones, al 3 luglio del 1971, il giorno in cui muore Jim Morrison, insomma, si consumano le vite di 4 personaggi di assoluta leggenda. Pensate, il primo, il fondatore dei Rolling Stones, il più grande chitarrista del secolo, la prima rockstar donna della storia e il mito del rock ancora integro, il poeta maledetto, il re lucertola, no? Come certo, chiamano, certo. Jim Morrison. E la cosa curiosa dello spettacolo è che io racconto queste vite partendo dal giorno in cui si svolgono a Parigi i funerali di Jim Morrison, e vado a ritroso negli anni cercando anche di trovare i collegamenti che c'erano tra, oltre a ricostruire appunto e a cercare di chiarire i particolari misteriosi delle morti, anche trovare le connessioni che c'erano tra di loro, cioè i legami, le liaison artistiche e personali che c'erano tra questi 4 personaggi. Tuo ruolo è di Ralph J. Gleason. Sì, come fai a saperlo? Ho il manifesto qua davanti. Sei troppo informato. Sì, no, è la prima volta che, cioè, la prima volta che io faccio tanti spettacoli, tanti dei miei libri, eccetera, però ovviamente faccio, come dire, il ruolo di me stesso. In questo caso il regista mi ha chiesto di trovare un altro personaggio e allora ho pensato che, non essendo io un attore, ho pensato a questo personaggio che è stato il primo giornalista musicale della storia, che quando si svolgono i fatti aveva più o meno la mia età, certo. Che è un personaggio rispettato, molto amico dei musicisti, insomma mi ci rivedo un po' in lui, prendetela ovviamente senza presunzione, chiaramente riferimenti, però cioè, c'erano tante analogie, ho avuto il benestare della famiglia, il figlio pensa mi ha detto, però mi raccomando, il mio padre aveva un carattere, una personalità che era molto legata al suo aspetto fisico, era alto, magro e coi baffi. Boom, gli ho sparato una foto, perfetto. Detto, va bene così, e ho detto ok, e quindi ho anche l'approvazione della famiglia e sono a posto. Quindi sei a posto, c'è Brunel, ci sono gli attori, Brunella Boschetti, no, Laura Fedele. Brunella Boschetti è la mia partner artistica, è una cantante fantastica con cui vengo a Padova. Benissimo. È quella con cui, diciamo, poi c'è Laura Fedele che è una blueswoman straordinaria, Boris Savoldelli un altro vocalist, tutti diciamo le guest star sono tutti musicisti, io sono l'unico a recitare, ci sono delle voci fuori campo c'è una sorta di radio che dà le notizie che io commento, e ci sono un altro paio di voci, ma in scena a recitare ci sono solo io e i miei partner sono musicisti, oppure c'è un artista diciamo visuale, visivo, si chiama Carlo Montana, fa i light show psichedelici come si facevano nella California di quegli anni. Io prima ho fatto sentire Peace My Heart di Janis Joplin, un piccolo veloce escurso su Janis Joplin. Che cosa vuoi sapere di lei? Se voglio sapere come hai cominciato l'introduzione, il libro ce l'ho davanti chiaramente, sì. Però come hai introdotto il personaggio? Janis? Sì, Janis. Beh, sai, i delitti rock sono 200 casi sulla scena del crimine, cioè sulla scena di morte, e il caso di Janis Joplin viene introdotto sostanzialmente nel momento in cui il suo allora road manager, che peraltro oggi è un fotografo rock affermatissimo, uno storico, un personaggio anche molto simpatico che ho conosciuto, che vive nel Wyoming in una località sciistica rinomatissima e che si chiama John Byrne Cook, è lui che quella sera del 4 novembre del 1970 sale al primo piano del Landmark Hotel di Hollywood, apre la camera della stanza di Joplin e trova Janis riversa tra il letto e il comodino. Era la notte prima che lei non si vedeva, era stata in studio di registrazione tutto il giorno, stava preparando il suo nuovo album, era in un periodo felice della sua vita, però l'eroina era riaffiorata misteriosamente e il suo pusher fidato, un certo George, che testava tutte le volte le dosi d'eroina e la purezza della droga, quella volta non l'ha fatto. Purtroppo, oltre a Janis, in quella settimana l'eroina distribuita e venduta da George ha provocato altre vittime. Si suppone che fosse, mi pare, 10 volte più pura della media, quindi con una, diciamo, forza dirompente assoluta, incredibile. Che lei è morta di overdose. Certamente. Noi abbiamo fatto sentire Peace My Heart, of My Heart, che era un pezzo che non aveva inciso lei per prima, l'ha inciso dopo. Sì, era pezzo della sorella di Aretha Franklin, Esattamente. si chiama Emma Franklin. È un pezzo che è diventato famoso perché l'hanno usato come jingle per una mentina che non mi ricordo più chi È era, però vero. che si vede la pubblicità che lei dà il bacio, no, lui dà il bacio a lei, lei fa trrr, sembra una trottola, no? stato rilanciato così, sì, in È questo stato modo. rilasciato così, però il pezzo già nella versione di Emma Franklin era andato piuttosto bene. Certo, nelle mani o diciamo sotto il trattamento vocale di Janis Joplin diventa una leggenda assoluta e uno dei pezzi che l'hanno accompagnata nel corso della sua purtroppo brevissima carriera, ma che rimane uno dei grandi standard del suo songbook strepitoso. Decisamente. È arrivato al 12° posto negli USA all'entrata, 45 giri, leggo qua su una piccola recensione. Passiamo a Jimi Hendrix. Io ho scelto Hey Joe perché mi piaceva particolarmente. Beh, poi anche il primo, praticamente il È il primo primo pezzo, singolo praticamente. il primo singolo, 1966. E l'album storico, possiamo citarlo, l'album storico suo. Pronto, mi senti? Dal primo disco Sì, è di dal primo Hendrix, disco, Are chiaramente. Bellissimo, You Experienced? Sì. immortale musicalmente. Jimi Hendrix è un caso, diciamo che non so se presenta veri e propri misteri, però io l'ho analizzato abbastanza nel dettaglio. Perché ho avuto la possibilità, ad esempio, di fare una lunga. L'avevo fatto per una televisione di Sky che si chiama Jimmy, 3 o 4 anni fa, 3 anni fa mi pare, fece uno special proprio dedicato a Jimi Hendrix. Ebbi la possibilità di intervistare Eric Burdon, il cantante leader degli Animals, che era Immenso molto, cantante. molto amico di Jimi Hendrix, e fu praticamente il primo che arrivò nella casa di Monica Donovan, che era la fidanzatina di Jimmy, che era quella che quella sera lo ospitava nel suo appartamento. Prima ancora che arrivassero la polizia e i medici. E quindi Burdon mi ha raccontato, diciamo, come sono andate le cose, e al di là del fatto che appunto c'era stata anche lì una, diciamo, una nottata di bagordi con diverse pillole tranquillanti prese in quantità esagerata, il fatto che lui ha vomitato, lei, anche lei sotto l'influsso di barbiturici, eccetera, non ha avuto la prontezza di girarlo, però al di là di tutto ciò, Eric Burdon mi raccontò che quando arrivò l'ambulanza, uno dei due infermieri, che poi si era scoperto essere un razzista conclamato, di fronte a un nero, in stato comatoso, una rock star, quindi insomma un artista, pare che non abbia fatto tutto quello che avrebbe potuto e dovuto fare, per cui non è che magari a lui si dà la croce della colpa, però certamente nel caso della morte di Jimi Hendrix, un po', come dire, l'imprudenza, il fatto di essersi fatta prendere dal panico di questa ex pattinatrice della Germania dell'Est, che in quei giorni era la sua fidanzata, Certo. un po' per il fatto che questi infermieri appunto non hanno prestato forse l'aiuto necessario, anche lì si consuma la morte di una. Di un genio assoluto della musica rock. Io credo che ascoltare oggi la musica di Jimi Hendrix non senti, come dire, il fatto che è datata, che risale a 40 e passa anni fa, e chitarristicamente è un, come dire, un mostro assoluto, ma non solo Certo. per gli effetti, gli assoli, insomma, ascoltate il modo che aveva lui di accompagnare, di fare il backup, ma ascoltate anche la sua voce, cioè non c'è solo la chitarra. Jimi Hendrix è stato un artista totale. Bono l'ha definito il più grande genio strumentale del Novecento. Io credo che sia stato comunque un personaggio che purtroppo avrebbe potuto fare cose fantastiche, e solo in 3 album e mezzo, perché poi il live del Band of Gypsies non si può considerare un album a tutti gli effetti, però ha fatto vedere in 3 album e mezzo, in 3 o 4 anni di carriera, delle cose che. Incredibili. Tu nella scheda che hai scritto per 1000 canzoni hai citato una frase di Jimmy: adoro gli amplificatori Marshall, non sono nessuno senza di loro. Beh, lui però guarda che anche da quel punto di vista lì, essa parte di Marshall, cioè, però quegli anni erano incredibili, c'era una capacità totale di cogliere dei momenti, il giorno dopo c'era già qualcuno che ti aveva sentito ed era riuscito ad andare avanti. Le idee di suoni che aveva nella testa Jimi Hendrix certamente furono poi tradotte anche dai suoi tecnici, dai suoi amplificatori, dalle leve delle sue chitarre, dalle sue intuizioni. Ed è un batterista straordinario come Mitch Mitchell. Sì, beh, io adesso stavo pensando solo al suono della chitarra. Ah, ecco, ok, ok. Sì, sì, poi vibes, tutto. Cioè, delle cose che non... cioè, all'epoca nessuno... Io mi ricordo, ero veramente un ragazzino, mi sembrava che la sua chitarra parlasse. Avevo questa... questa sensazione, la percezione era completamente diversa, erano suoni mai sentiti ed erano talmente amalgamati con la musica che ti davano l'idea che questo soggetto avesse qualità, come dire, soprannaturali. Certo. No? Poi se lo vedevi, suonava la chitarra con i denti dentro le spalle, cioè c'erano delle cose funamboliche, no? Poi non era quello che voleva lui, però certamente quella roba colpì moltissimo. Chiaramente. Allora sentiamo i Joe e tu stai in linea, chiaramente, e andiamo avanti, ok? Ok. Ok, Ezio, ci sei? Ci sono sempre. Benissimo. Questo è un singolo che ha scosso, decisamente scosso, 1966-67. La leggenda è cominciato ad andare, no? Cosa dici? Beh, direi di sì, anche perché poi è un pezzo non scritto da Hendrix. Esattamente. Una specie di ballata western, mi verrebbe da dire, che nella versione di Jimi Hendrix viene completamente stravolta, resa psichedelica, intrisa di blues e diciamo resa scintillante dalla sua dalle sue doti artistiche che abbiamo ben descritto prima. Ecco. Decisamente. L'introduzione del libro, abbiamo già parlato di questa ragazza uccisa da Phil Spector, assassinata più che uccisa, assassinata da Phil Spector. Poi c'è anche una introduzione ancora che prima di parlare di questo episodio, tu scrivi: questa non è un'enciclopedia delle morti rock, anche se si avvicina molto. Sì, ho scritto questo perché non ho messo tutte le morti che ci sono state nella storia della musica, diciamo dagli anni 30 ad oggi, ma ne ho fatto una selezione, sono 200 casi, esatto, sì. Tra quelli che sono delitti in senso tecnico, cioè degli omicidi, e quelli che più in generale io considero delitti in senso lato, cioè un delitto che appunto Jeff Buckley sia morto così giovane, Jimi Hendrix abbia avuto la fine che ha fatto, Janis, insomma tutti quelli che abbiamo menzionato, ma poi ho anche voluto mettere delle morti che o per fattori di curiosità o per fattori di suggestione mi avevano colpito in modo particolare, per cui è una scelta abbastanza ampia, per questo dico assomiglia molto, ma non è un'enciclopedia, nel senso che non troverete magari dei nomi molto celebri, e soprattutto poi un'altra scelta che ho fatto, ho deciso di limitare la scelta di questi casi ai casi internazionali, ho volutamente escluso gli italiani, se non inserendo in una postfazione, peraltro neanche scritta da me, ma scritta da due detective liguri che hanno ricostruito il caso, diciamo, infinito della morte di Luigi Tenco. Esattamente, quello sarà la fine del programma, ci arriviamo. Per cui dico subito che non ho inserito appunto i casi di morti italiane, perché a parte quello di Tenco, che è un caso assolutamente esemplare da citare in qualsiasi tipo di enciclopedia di questo tipo a livello internazionale, però gli altri, a parte un paio, non ce n'erano molti significativi, e quindi per non far torto a nessuno, per così dire, mi sono concentrato sui nomi internazionali, ricostruendo casi clamorosi, come certo, quello di Marvin Gaye ucciso da suo padre, sì, quello di Sam Cooke che sconta in maniera esagerata una notte con una bella signorina che aveva trovato in un club in cui si stava celebrando l'uscita di A Change Is Gonna Come, eccetera eccetera, sino ad arrivare ai casi più recenti come quello di Michael Jackson, forse degli ultimi tempi è quello più emblematico e più significativo, che ancora una volta fa capire come il contesto in cui succedono queste morti influenzi in maniera profondissima le indagini, nonostante ovviamente le risorse e le tecniche investigative, le risorse scientifiche oggi siano imparagonabili rispetto a quelle di 40 o 50 anni fa, eppure la pressione mediatica è sempre fortissima e il desiderio di buttare il mostro in prima pagina sembra sempre guidare un po', diciamo, le logiche, e quindi sconvolgendo spesso quelli che sono dei criteri magari più oggettivi e più giusti, ecco. Ritornando un momento a Brian Jones, che ne pensi della ventilata ipotesi di riaprire il caso? Ma il caso è stato riaperto, esattamente. Però il caso di Brian Jones io credo che, per come lo descrivo io nel libro, è un caso misterioso in certi contorni, ma alla fine piuttosto chiaro. Il caso di Brian Jones è un caso di omicidio preterintenzionale, viene definito in modo tecnico, cioè non un omicidio premeditato, ma un omicidio che accade un po' casualmente. Brian stava ristrutturando la sua villa in campagna, questa fantastica Cotchford Farm, che fu la villa appartenuta allo scrittore inglese che creò l'orsetto Winnie Pooh, esatto. E aveva affidato l'incarico a due tipacci malavitosi che erano abbastanza, che frequentavano già il giro dei Rolling Stones, però avevano litigato con Keith Richards, che li aveva fatti licenziare da guardie del corpo e tutto fare del gruppo. Brian li aveva messi sotto contratto e aveva affidato loro i lavori della casa, però ben presto tra loro si crea uno stato di forte tensione. Loro odiavano il fatto che Brian fosse un carattere molto irascibile, molto arrogante, detestavano il suo look hippie, il fatto che avesse successo con le donne, il fatto che fosse sempre vittima di droghe e alcol, e lui odiava i loro comportamenti un po' sgarbati nei suoi confronti, lui è abituato a essere adulato e trattato bene, finché un giorno capita un incidente, una trave di legno della casa cade e per un pelo finisce sulla testa di Anna Woolen, che era la bellissima fidanzata di Brian. Brian a quel punto decide di farla finita e licenziare i due tipi. Si ritrovano una sera in piscina a fare, tra virgolette, i conti, e Brian, che era un nuotatore provetto nonostante l'asma, comincia a giocare con loro, li prende in giro, li tira sotto, gli prende le gambe. Però il fatto che questi sono in tre, a un certo punto gli ritornano, diciamo, il giochino, per cui lo tengono sott'acqua e forse esagerano, e poi non c'è più, e poi non c'è più niente da fare. Parliamo di un'altra morte eccellente del Re Lucertola, quindi Jim Morrison. Ma quello che io magari metto in luce nel libro è che si è sempre detto, ho letto anch'io, ho trovato scritto da molte parti, che Jim Morrison sia morto di overdose di eroina. In realtà l'eroina era proprio una droga che Jim detestava, le aveva provate tutte peraltro, le altre, però quella la detestava, ed era la droga che invece amava la sua fidanzata Pamela Curson. E quella sera, diciamo, lo inganna, perché lui vede lei tagliare una polverina bianca su uno specchio con una carta di credito e immagina che sia eroina, e quindi la minaccia, butta via quella roba, gli dice. Lei invece lo tenta di rassicurare, no, non è quello che credi, questa è cocaina, se vuoi te ne do un po'. Lui si fida, sniffa la cocaina, aveva bevuto credo un paio di bottiglie di whisky, per cui le due cose entrano, come dire, in simbiosi e gli provocano un edema polmonare, per cui la causa tecnica della morte poi di fatto è questa, diciamo, collisione tra l'alcol che aveva in corpo, l'eroina sniffata e questa, diciamo, esplosione dei polmoni. Questa tragedia. Noi abbiamo scelto la prima traccia del loro primo album, il mitico The Doors. Cosa ne pensi? La prima traccia cos'è? Esatto, proprio quella, no? Sì. Sì, sì, fantastico. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Ah! Come on! Eccoci qua, parliamo un secondo di questo pezzo, Ezio. Tu hai scritto nella scheda: per l'incisione il produttore Paul Rothschild adotta una soluzione acustica particolare, disponendo i microfoni affinché la voce di Morrison risulti lontana rispetto alla musica e acquisti una valenza quasi mitica. Beh, dovete pensare che quelli erano tempi completamente diversi, mica c'erano le possibilità tecnologiche di oggi. Cioè, incidere in uno studio di registrazione nel 1966, perché poi il disco esce nel gennaio del 67, cioè sì. 45 anni fa quasi, bisognava ingegnarsi, c'erano spesso solo due, al massimo quattro piste, spesso si registrava in presa diretta, cioè non c'erano sovraincisioni, e queste trovate cambiavano i suoni. Mi raccontava Eric Clapton quando incise il famoso, leggendario, almeno parlo, mi rivolgo a tutti gli appassionati di rock blues, primo disco che incise lui con John Mayall, e ricorso a un trucco molto simile, cioè il posizionamento dei microfoni negli amplificatori in modo da modificare, diciamo, la percezione del suono, dandogli dei piani di ascolto diversi, cose che adesso si fanno molto semplicemente manovrando dei cursori, esattamente. Ora invece non era così, per cui Paul Rothschild, che era comunque un mago, adesso al di là del lavoro con Jim Morrison, è quello che poi ha preso in mano purtroppo l'ultimissima fase della carriera di Janis Joplin. Sì, esatto. Certo, quello era un produttore diverso da quello che pensiamo oggi, cioè era gente che aveva anche queste capacità tecniche barra tecnologiche di inventarsi lì per lì delle soluzioni che erano rudimentali per noi oggi, però per l'epoca erano assolutamente rivoluzionarie. Ha prodotto tutti i dischi dei Doors, mi pare, vero? Sì. Tutti quanti, era il produttore, il principe, il loro produttore. Sì, esatto. Li ha lanciati, li ha scoperti, li ha mandati nel firmamento praticamente. Sì, è un grande personaggio che tra l'altro nel mio racconto teatrale compare, perché è colui che realmente mette in contatto per la prima volta, fa incontrare, diciamo, Jim Morrison e Janis Joplin. Però non vi svelo, se no non venite. No, bisogna vedere lo spettacolo e leggere il libro, chiaramente. Esatto. Lo spettacolo si chiama The Little Rock, il famigerato Club J27, così, vero? Sì, esatto, praticamente lo stesso titolo del libro, Delitti Rock, ha questo sottotitolo, mentre il libro ha Da Robert Johnson a Michael Jackson, 200 inchieste sulla scena del crimine. Lo spettacolo teatrale ha questo sottotitolo perché comunque, come avevo spiegato prima, si focalizza sulle morti di questi quattro personaggi, tutti con una J nel nome, tutti morti a 27 anni. Hai scritto, siamo stati, hai riportato una frase di Paul Kattner, siamo stati una generazione di esploratori. Sì, questo me l'ha detto lui, diciamo, è un'analisi cinica, nel senso che lui sostiene che gli anni 60 siano stati anni di sperimentazione, di esplorazione, e come tutte le esplorazioni scientifiche compiute dall'essere umano, c'è pericolo, insomma, si rischia la vita, alcuni ce la fanno, altri no. Questa è la sua teoria. C'è poi la teoria di chi vede invece queste vittime del rock come invece persone vicine, no? Come io vi spiegavo di Lana Clarkson, per certo. Cui, quelli sono degli amici, e quando ti muore un amico, insomma, la teoria molto lucida ma anche un po' cinica di Paul Kantner a me personalmente non soddisfa più di tanto. Poi c'è una frase violenta di Pete Townshend, che dice certo, lui ha ragione, cioè, è esattamente quello che dico io, no? Poi quelli erano i suoi amici esattamente, erano i suoi amici, ma ci sono anche pure le nostre grandi icone rock, però erano amici, però suoi, sono i suoi amici, è chiaro, ti mancano le persone, no? Adesso passiamo a una storia infinita, la morte di Luigi Tenco. Io ricordo che un grande radiocronista, Ciotti mi pare, fece una indagine su Luigi Tenco, scrisse anche un libro, e confermò, secondo lui, che non era stato, che era stato ucciso praticamente. Ma guarda, Sandro Ciotti, che purtroppo forse ci ascolta da lassù, esattamente, oltre ad essere appunto un grande radiocronista e telecronista sportivo, era anche un grande appassionato di musica, e lui si trovava in una camera, mi pare molto adiacente alla camera dell'Hotel Savoy, in cui si suppone Luigi Tenco si sia tolto la vita. Dobbiamo sempre anche qua considerare il contesto. Era il febbraio del 1967, il Festival di Sanremo. Se ancora oggi il Festival di Sanremo in qualche modo, come dire, catalizza l'attenzione dei media italiani, all'epoca bloccava letteralmente l'Italia. Era uno degli eventi più importanti del nostro paese. E l'idea che una tragedia di queste dimensioni e anche con questi contorni macabri, misteriosi, potesse, come dire, bloccare questa festa, questo evento in cui si celebrava l'italianità, sicuramente era un bel casino. Lì l'inchiesta fu condotta a dire in modo maldestro e fargli un complimento, fu spostato il cadavere, poi fu rimesso, insomma ci sono stati casini da tutti i punti di vista. Io ho appena partecipato venerdì scorso alla registrazione di un programma che andrà in onda non questo giovedì ma giovedì 10, mi pare, 10 giugno, sì. Un programma di Rete 4 che si chiama Top Secret. Lo vedremo sicuramente. Ecco, lì c'erano Paolo Lì tra gli ospiti presenti, c'era un criminologo che si chiama Massimo Picozzi, Iva Zanicchi e Paolo Limiti. Io vi riporto, loro nessuno credeva a tesi diverse da quella del suicidio, compreso il criminologo. Io ripeto, la postfazione del mio libro è stata scritta da due giornalisti liguri che sono convinti invece, un po' come hai buttato lì tu, come Ciotti, Sandro Ciotti, che invece non si sia trattato di suicidio. Ecco, sì. Io dico, nel racconto loro effettivamente emergono, ma così come sono emerse anche nel programma che abbiamo fatto, parecchie incongruenze, un sacco di punti oscuri, il fatto che, come spiegava Ciotti, che era nella camera di fianco, lui non ha udito lo sparo, e non stiamo parlando di un albergo a 5 stelle nel cuore di Manhattan, stiamo parlando di un alberghetto di Sanremo del 1967, per cui pare veramente impossibile che uno sparo di pistola non si possa udire. Chiaro. Da una camera all'altra. Chiaramente. Io vi porto, anche se nel libro non c'è, la testimonianza di un mio amico che era molto amico di Luigi Tenco, era lì a Sanremo con lui, ha condiviso tante cose con lui, si chiama Ricky Gianco, ve lo dico perché queste cose che io vi dico lui le ha dette insieme a me o di fronte a me, in situazioni pubbliche, alla radio, alla televisione, di fronte alle persone. Lui, che era molto amico di Luigi, dice che non sa che cosa sia successo, quindi non tira in ballo, diciamo, questioni complottistiche, un po' come invece i miei due detective liguri tra le righe fanno capire. Però lui è sicuro di una cosa, che Tenco non può essersi suicidato. Ecco, questo è importante. Questo è importante, è fondamentale. Ok, ripiloghiamo allora. Io mi fido di una persona che lo conosceva, così come io vi dico, quando ho sentito dire che Lana Clarkson quella sera era imbottita di droga, io vi dico, non è possibile. Non era vero, assolutamente. No, lei beveva latte e menta, esatto. Quindi non l'ho mai vista fumare una sigaretta, mai prendere una pastiglia. Quindi secondo me la testimonianza di chi... Poi sai, tutto è possibile. Certo, no? Certo. Tutto è possibile sotto magari Rohypnol o delle pastiglie che ha preso. Però io vi porto la testimonianza di Ricky e vi rimando alla postfazione del libro, in cui invece, se qualcuno, come mi pare di aver capito tu o voi, insomma, avete dubbi, no, sul suicidio, lì i vostri dubbi sono ampiamente alimentati. Perfetto, perfetto. Mi butto subito a leggere il capitolo di Luigi Tenco. Allora, ripiloghiamo: Ezio Waitamaki, Delitti Rock, da Robert Johnson a Michael Jackson, 200 indagini sulla scena del crimine dell'Arcana Editrice. Ricordiamo che tu sei a Padova l'8 giugno per la presentazione del libro alla Feltrinelli, e ricordiamo anche lo spettacolo, Ezio. Lo spettacolo si chiama Delitti Rock, il famigerato club della J27, faranno un'anteprima alla Salumeria della Musica il 17 giugno, saremo nel nord-est il 1 agosto a Folkest, a Spilimbergo, sì. E poi nei teatri a partire da ottobre, non so che cosa ci succederà, però io spero che, intanto voi della radio veniate martedì prossimo, ecco, sì, certo. Io sono lì con le mie chitarre. Bella, una cantante fantastica, è stata sul palco con i Jefferson Airplane, con Tuck and Tatty, con tanti amici, e vi sbalordirà, e io sarò lì a firmare autografi e a farvi dediche sul mio libro. Benissimo, grazie a Ezio. Concludiamo con Lontano Lontano, pezzo meraviglioso, secondo me uno dei pezzi più belli della musica italiana, non so se sei d'accordo. Sono molto d'accordo, c'è un grande rimpianto per un artista che però, come io scrivo nel libro, ha fatto anche lui la sua mossa di marketing giusta, morire giovani. Certo. Grazie Ezio, buonasera. Ciao, buonasera. Grazie. Ciao, ciao. lontano, lontano nel tempo. Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. E lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un volto per caso ti fa tanto. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro, e ad un tratto chissà come e perché ti troverai Sì, Agostino, abbiamo finito per la prima parte, Agostino. Abbiamo finito questa bella conversazione con Ezio Guatamacchi presentando il suo libro Delitti Rock. Ribadiamo che martedì 8 giugno lui è alla Feltrinelli a Padova e presenterà in diretta, cioè sarà proprio presente il suo libro alle ore 18. Grazie ad Agostino Spolaore che ha diretto benissimo, ha portato avanti la regia. Domani avremo un altro appuntamento, ma fra qualche minuto, cioè fra decine di minuti, partiamo con i Wind, un gruppo di friulano che trasuda rock blues. Posso dire così? Non sono d'accordo, trasuda rock blues. Fino a mezzanotte inoltrata parleremo di rock blues e del loro nuovo album. Grazie e ci sentiamo fra poco, una decina di minuti.